Ok. Questa vita è mia e voglio volume, voglio ballare fino all'ultima canzone. Ora lo voglio, ora. Dammi il volume. Una sera come tante e significante. Due, le mongolfiere nelle mutande. Tre, lampi di luce abbagliante, cassa rullante. Quattro secondi e sono dentro all'istante. Alzo il volume della radio, cambio faccia al pianeta. Milano un cielo blu seta ed è una grande discoteca. E con i bassi metto dura prova i diffusori. Faccio lo zar, guido con il braccio fuori. Non è colpa mia se questa è roba calda, ma che ti salta e ti ribalta solo se è ascoltata alta. E non mi dire di abbassare perché tanto non posso, non riesco, non voglio, sono meglio se il livello è maestoso. Il bordello è fragoroso e i miei vicini hanno l'esaurimento nervoso. Più volume ho, più ne vorrei. Stasera il mio futuro è nelle mani di un DJ. Questa vita è mia e voglio volume. Voglio ballare fino all'ultima canzone. Questa vita è mia e voglio volume. Voglio vedere quanto in là posso arrivare. Ora lo voglio ora. E non mi importa se salita, ci vorrà tutta la vita. Sfoderà da far vibrare la città. Sempre sul disco e sul palco. Re, spingo da sempre l'idea di star calmo. Mi ritrovo una vivacità al limite della legalità. E per vedere l'effetto che fa. Andavo a scuola con lo stereo sulla spalla. Mettevo a palla finché ballava pure la bidella. Interrogando ogni professore. Qualcuno mi spiega perché sta roba a me m'ha preso il cuore. Più volume DJ, più volume. Perché la vita a me l'ha salvata una canzone. Da allora cerco di trasmettere la stessa sensazione in tutta la nazione, regione per regione. Un fiume di mani alzate insieme. Gente che chiede volume, più volume. A volte per colmare un vuoto, più volume. A volte serve una valvola di sfogo. Ora lo voglio ora. E non mi importa se in salita, ci vorrà tutta la vita. Suonerà da far vibrare la città. È la tua libertà. E dalle volume. Questa vita è mia e voglio volume. Spaghetti funk, la stiloseria, articolo 31, basta come garanzia. Le mie intenzioni le sapete, disturba le quiete finché non vedrete crepe su ogni parete. Perché io penso che il volume sia un diritto. Volume della voce di chi dice io esisto. Volume del cervello sotto il mio cappello. Che se c'è grande fratello dice